TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Illustrate dalla Regione le iniziative predisposte per combattere il fenomeno del caporalato, sempre più diffuso anche sul nostro territorio. Nell'ultimo rapporto sulla qualità della vita pubblicato dal Sole 24 Ore, Udine si piazza al terzo posto nella classifica nazionale, Trieste al 17°, Pordenone al 24°, Gorizia al 35°. A un anno e mezzo dalle elezioni comunali di primavera, il centro-sinistra annuncia che a Trieste correrà unito, almeno per quello che riguarda le quattro forze di opposizione attualmente presenti in Consiglio. A Udine l'amministrazione comunale ha presentato il bando per un fondo pubblico che supporti progetti di economia locale. La sanità al servizio del paziente compie un anno. La carta di Udine è firmata dagli Stati Generali per l'umanizzazione delle cure e il benessere organizzativo, un documento scientifico per dire basta ai disagi e ai percorsi ad ostacoli dei pazienti. Con un incontro a Pordenone si è concluso il tour di Cantiere Città, che ha proposto in giro per l'Italia progetti e iniziative delle città finaliste di Capitale Italiana della Cultura 2027. Le 12:31 minuti e 30 secondi, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Beert e Daniele Lettige, che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di lunedì 1 dicembre. In apertura torniamo a parlare della lotta al caporalato, poiché sono state illustrate poco fa dall'assessora al lavoro Alessia Rosolen le iniziative predisposte dalla Regione per combattere questo fenomeno sempre più diffuso anche sul nostro territorio. Nell'agricoltura anche in Friuli Venezia Giulia sono moltissime le cosiddette partite IVA senza terra di origine pakistana, spesso che come agenzie di somministrazione assumono irregolarmente connazionali, li sfruttano sottopagandoli a beneficio però spesso anche di aziende agricole italiane che di fatto godono di questo lavoro fatto da caporali stranieri, e questo produce concorrenza sleale verso chi invece agisce nella legalità. La denuncia dei sindacati nella prima occasione di confronto del nuovo osservatorio contro il caporalato del Friuli Venezia Giulia, nato a luglio con un emendamento del bilancio regionale e un budget iniziale di 60.000 euro. Nel Palazzo della Regione si sono incontrati tutti gli operatori, Regione, Prefettura, parti sociali, dei lavoratori ma anche delle aziende. Stefano Gobbo della FAI CISL, di che numeri parliamo quando parliamo di partite IVA senza terra? Ad oggi in Regione risultano attive oltre 200 partite IVA. Di queste 200 partite IVA, alle loro dipendenze troviamo oltre 2.500 pakistani. Certamente il fenomeno non può essere più ignorato, anzi deve essere monitorato per arrivare alla fine alla creazione di un albo regionale delle imprese virtuose. Le imprese virtuose a volte sono costrette di fatto ad utilizzare queste partite IVA senza terra, però non possono sapere se di fatto sfruttano connazionali, cioè chi deve verificare? In questo momento l'imprenditore agricolo, che ha un'estrema necessità di trovare manodopera, non ha la possibilità di controllare chi è presente sul campo 24 su 24. Occorre mettere in rete diversi attori perché questo sia fattibile a tutela delle imprese e degli stessi lavoratori. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Nell'ultimo rapporto sulla qualità della vita pubblicato dal Sole 24 Ore, Udine si piazza al terzo posto nella classifica nazionale, più indietro gli altri capoluoghi. Udine al terzo posto con un guadagno di 3 posizioni, Trieste al 17°, più 2, Pordenone al 24° con una perdita di 8 posizioni e Gorizia al 35°, 3 gradini più su. Sono i piazzamenti delle province del Friuli Venezia Giulia nella classifica sulla qualità della vita stilata come ogni anno dal Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria. Una statistica che prende in esame un ampio spettro di parametri raggruppati in 6 categorie, e la provincia friulana fa valere piazzamenti nella parte medio-alta della classifica in tutti i settori, guadagnando in particolare 20 posizioni nella graduatoria che riguarda affari e lavoro, e pur senza entrare nella top 10 in nessuna categoria. La caduta di Pordenone, invece, è frutto di una perdita di posizioni nei settori demografia e società, ambiente e servizi, dove comunque la città resta all'11° posto a livello nazionale, e cultura e tempo libero, dove si registra una 69esima posizione, che appare almeno curiosa per una provincia il cui capoluogo è stato scelto come capitale italiana della cultura per il 2027. Guardando le classifiche nel dettaglio, spicca poi la clamorosa quintultima posizione occupata a livello nazionale dalla provincia di Trieste nel settore giustizia e sicurezza, in una realtà che, secondo la statistica del Sole 24 Ore, è seconda in Italia per affari e lavoro e continua ad essere prima assoluta per cultura e tempo libero. un settore, quest'ultimo, in cui Gorizia entra nella top 10, guadagnando 8 posizioni e forse c'entra il traino di Go2025, ma la provincia esontina continua a scontare posizioni di media classifica nei settori ricchezza e consumi, affari e lavoro e giustizia e sicurezza. Andrea Vardaniga, TGR Friuli Venezia Giulia. In vista dello sciopero generale del 12 dicembre, indetto per l'intera giornata di lavoro per tutti i settori pubblici e privati, a Pordenone, nell'auditorium della Casa dello Studente, la CGIL ha indetto una prima assemblea per illustrare alcuni dei punti che saranno al centro delle richieste al governo, come in questo caso il fisco e la sanità. I prossimi appuntamenti saranno invece dedicati al problema della tutela dei lavoratori e pensionati, al rinnovo di tutti i contratti di lavoro privati e alla richiesta al governo di risorse aggiuntive per il rinnovo dei contratti pubblici, ma anche il blocco dell'aumento dell'età pensionabile, una maggiore flessibilità e l'estensione della 14ª per i pensionati, oltre al rafforzamento del welfare, il contrasto della precarietà e del lavoro povero, unito a politiche industriali per il rilancio dell'economia e dell'occupazione. Le forze di opposizione in Consiglio Comunale a Trieste fanno quadrato e presentano la coalizione del centro-sinistra alternativa all'attuale maggioranza in vista delle elezioni amministrative del 2027. A 16 mesi dalle elezioni comunali di primavera 2026, il centro-sinistra annuncia che a Trieste correrà unito, almeno per quello che riguarda le 4 forze di opposizione attualmente presenti in Consiglio, un percorso politico nato da anni di lavorazione inclusivo e aperto non solo ad altre forze attualmente escluse, ma anche ai cittadini, hanno detto i rappresentanti di PD, 5 Stelle e Punto Franca adesso Trieste, che quindi aprono le porte anche in Italia di Nazione, AVS e eventuali nuovi alleati. Manca ancora logicamente il candidato primo cittadino, così come manca per il centrodestra che dovrà l'addio a Palazzo Chiesa del sindaco Roberto Di Piazza dopo 21 anni di governo inframmezzato da 5 anni di centro-sinistra con l'allora giunta Cosolini. Difesa dei servizi pubblici, soprattutto per l'infanzia, con l'accelerazione dell'asilo italiano, Porto Vecchio con un progetto contro la speculazione immobiliare e soprattutto no Ovovia, i punti cardine del programma su cui si lavorerà da qui alle urne. Ascolteremo il territorio, i rioni, hanno detto i coordinatori locali di partiti e movimenti che in questi anni hanno sempre votato compatti contro la giunta di piazza e che proprio negli ultimi giorni hanno protestato contro i 30 milioni accantonati dalla giunta, attingendo a risorse interne e tagliando servizi per salvare il progetto Cabinovia. Trieste, Andrea Saulo, TGR, Friuli Venezia Giulia. E intanto a Udine l'amministrazione comunale ha presentato il bando per un fondo pubblico che supporti progetti a favore dell'economia locale. È online dalle ore 12 il bando del Comune di Udine a sostegno del commercio, 1.400.000 euro a fondo perduto per nuove aperture, continuità di imprese e rinnovamento dei negozi destinati alle attività commerciali e artigianali della città. Due gli assi di intervento per il bando del rilancio economico, 1 milione di euro destinato alle aree periferiche dove negli anni si è avuto più depauperamento commerciale e 400.000 euro dedicati al centro storico dove fenomeni di desertificazione commerciale e difficoltà nel ricambio generazionale richiedono azioni mirate. Sarà possibile finanziare investimenti a partire da 10.000 euro e si potrà fare domanda nei prossimi 2 mesi. Uno dei capitoli riguarda l'acquisto di aziende o rami d'azienda da parte di giovani under 40 che subentrano a imprenditori over 60. Alcuni esempi pratici per chi vorrà aprire per esempio una nuova cartoleria all'Aipacco a fronte di un investimento di 60.000 euro riceverà il 75% di contributo, ovvero 45.000 euro. Un giovane imprenditore under 40 che rileva una storica bottega artigiana in centro da 80.000 euro riceverà 40.000 euro a fondo perduto. Un negozio di abbigliamento aperto da oltre 5 anni che deciderà di rifare arredo e vetrina otterrà 15.000 euro a fronte di un investimento di 30.000 euro. È un progetto di sistema che unisce visione, sostegno concreto e attenzione ai bisogni reali della città, afferma il vice sindaco e assessore alle attività produttive, Alessandro Venanzi. Per dare massima visibilità al bando e attirare anche imprenditori di altre regioni, il Comune ha avviato una campagna di comunicazione ampia e mirata, diffusa tra Veneto ed Emilia-Romagna, sui social, sulle testate locali e attraverso materiali grafici coordinati. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. 12:39 e 30 secondi, siamo al tempo, cielo coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 11 gradi e mezzo, a Pordenone 10, a Udine 8, a Gorizia 7 e mezzo, a Tolmezzo 5 gradi, a Forni di Sopra 4, a Piancavallo e Tarvisio 3 gradi e mezzo, a Sappada 2 e mezzo. Sul Monte Lussari 1 grado, sul Monte Zoncolan 0 gradi, sulla costa a Lignano 9 a grado. A Grado 9, a Lignano 7 gradi. E queste le previsioni dell'ARPA per il Friuli Venezia Giulia. Oggi il cielo prevalenza coperto, dal pomeriggio su pianura e costa saranno possibili piogge deboli o moderate. Sulla zona montana precipitazioni deboli, meno probabili in Carnia, con quota neve a partire dai 1200 metri. Questo pomeriggio si terrà a Trieste, nella sala conferenze della comunità serba ortodossa di Via Genova, un incontro pubblico dedicato alla futura organizzazione della sanità territoriale, alla luce dell'istituzione delle case della comunità, con l'obiettivo di mettere a fuoco il funzionamento di questo modello e i modi in cui garantire che le nuove strutture rispondano ai bisogni reali di cittadine e cittadine. Lo organizza il Coordinamento per la Difesa della Sanità Pubblica di Trieste, con gli interventi di Giorgio Simon, già direttore generale di un'azienda sanitaria del Friuli Venezia Giulia, che illustrerà gli aspetti cardine della riforma, e Cecilia Francini, medico di medicina generale a Firenze, già impegnata nella realizzazione di una casa della salute, Le Piagge, che racconterà cosa significa tradurre nella pratica quotidiana il modello di sanità di prossimità. L'intelligenza artificiale è un tassello sempre più rilevante nello sviluppo dell'impresa, in particolare in quella turistica si sta dimostrando già una leva capace di ampliare visibilità, personalizzare l'offerta e rendere più efficienti i processi. È in questo snodo tra innovazione digitale e crescita del turismo lento che si inserisce l'approfondimento promosso dalla Camera di Commercio di Pordenone Udine, che si è tenuto questa mattina nella Sala Valduga di Udine, pensato per offrire strumenti pratici alle imprese. Nel corso dell'incontro sono stati presentati i risultati del primo sondaggio realizzato sull'impatto dell'intelligenza artificiale nelle imprese locali e si è parlato di come l'intelligenza artificiale stia modificando la promozione turistica e il lavoro degli operatori. La Giunta regionale ha approvato una delibera che ripartisce tra le aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia un finanziamento di 180.000 euro destinato a sostenere l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita eterologa. Le risorse serviranno a rimborsare ai centri specializzati i costi per l'approvvigionamento di gameti non coperti dalle tariffe previste. Con questo intervento, ha commentato l'assessore alla salute Riccardi, vogliamo rendere più semplice e meno oneroso il percorso delle coppie che affrontano l'infertilità. È un sostegno concreto che permette di garantire pari opportunità di accesso alle tecniche di PMA eterologa senza lasciar ricadere sulle famiglie costi aggiuntivi. La sanità al servizio del paziente. Compie un anno la Carta di Udine, firmata dagli Stati Generali per l'umanizzazione delle cure e il benessere organizzativo. Un documento scientifico per dire basta ai disagi e ai percorsi e ostacoli dei pazienti. Negli ultimi decenni abbiamo assistito alla trasformazione della sanità da umana a industriale. Gli ospedali sono diventati aziende sanitarie, sono arrivati i manager e le loro scelte di cure influenzate dai margini di guadagno. Dimissioni veloci, presidi sanitari a basso costo, lunghe liste d'attesa per visite ed esami, dipartimenti che non dialogano fra di loro, ma c'è chi lotta contro tutto questo e ne ha fatto una vera missione, come il professore Massimo Robioni, primario di chirurgia maxillofacciale all'Ateneo Udinese, delegato per il rettore sull'umanizzazione delle cure e che ha in questo ambito anche un ruolo al Ministero della Salute. Con il progetto di umanizzazione delle cure ci rivolgiamo direttamente ai cittadini e stiamo cercando di cambiare la logica da quella che è una prestazione a quella che è il percorso di cura. Il cittadino, la persona malata, con il modello di umanizzazione delle cure entra in ospedale e si sente coccolato e trasportato da un medico all'altro, e per questo stiamo cercando di interrompere i silos, l'idea del silos della singola unità operativa, e lavorare in un modello più eterarchico, più orizzontale, dove i dipartimenti possono svolgere un ruolo, e questo è un grande vantaggio per la popolazione, per la qualità della cura e per il modello di cura. Robioni è uno degli autori della Carta di Udine, redatta un anno fa dagli Stati Generali itineranti per l'umanizzazione delle cure e il benessere organizzativo, un documento scientifico che mette al centro i pazienti, un modello di civiltà dove la tecnologia è al servizio della persona, il territorio e l'ospedale sono integrati per dare continuità al percorso di cura, gli operatori e i pazienti sono al sicuro, un modello sostenibile in cui non si guarda solo alla malattia, ma alle persone come soggetti da ascoltare e accogliere nella propria interezza, nella speranza che tutto questo non resti solo sulla carta. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Riparte oggi la campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare Track Tour Banca del Cuore, promossa dalla Fondazione per il Tuo Cuore e dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. Il Jumbo Track della Fondazione fa tappa da oggi a mercoledì in Piazza della Repubblica a Udine, offrendo ai cittadini la possibilità di sottoporsi a uno screening cardiologico completo e gratuito. Si celebra oggi la giornata mondiale di lotta all'AIDS, che vede molte iniziative organizzate anche in regione. A Trieste la manifestazione Visti e Svisti, promossa dal Dipartimento delle Dipendenze, il Centro di Malattia e Trasmissione Sessuale di Asugi, esplora i molteplici aspetti dell'infezione da HIV e delle altre malattie a trasmissione sessuale, con un'attenzione particolare a ragazzi e giovani adulti. Nella sala del Veruda del municipio, con la presentazione dello stato epidemiologico attuale dell'infezione da HIV e dei nuovi farmaci oggi a disposizione, e sempre in sala Veruda, sarà allestita una mostra d'arte con opere dell'illustratore e fumettista Raimondo Pasin. A Gorizia, nella sala conferenze del Polo Universitario, fino alle 13, un gruppo di esperti illustra le modalità per prevenire le malattie a trasmissione sessuale. E anche l'azienda sanitaria del Friuli Centrale organizza nella sede del Dipartimento di Prevenzione e nei consultori della provincia diversi appuntamenti di informazione, screening e colloqui con i professionisti medici in merito alle malattie sessualmente trasmissibili, alla contraccezione e agli eventuali percorsi terapeutici. In particolare, personale medico sarà presente da oggi a venerdì, dalle 15 alle 19, in Galleria Bardelli a Udine. Uno spazio dove sentirsi al sicuro da pregiudizi, Udine Checkpoint in via Grazzano 57, diventa un presidio dove ricevere test rapidi per HIV, sifilide ed epatite C, malattie sessualmente trasmissibili, ma anche un luogo dove poter parlare liberamente di sessualità e trovare orientamento nei servizi del territorio. Gestito da Arcigay Udine FUR APS, è aperto ogni giovedì dalle 19 alle 20:30, a disposizione personale medico e infermieristico, un ponte tra istituzione e comunità, spiega Antonio D'Angelo, responsabile salute del presidio. L'obiettivo è quello di prevenire la diffusione dei contagi. Simone Lanini, professore associato malattie infettive del Dipartimento di Medicina dell'Università di Udine, sottolinea come i 2/3 delle persone con HIV alla prima diagnosi presentino un sistema immunitario già compromesso. Significa meno possibilità di sopravvivenza alla malattia e maggiore diffusione. La percentuale delle malattie sessualmente trasmissibili in Italia risulta in aumento del 4% rispetto all'anno scorso. Il Checkpoint di Udine vuole rendere la salute sessuale un gesto naturale, non un tabù. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. 3 progetti dell'Università di Trieste hanno ottenuto finanziamenti per oltre 5 milioni di euro da parte del Fondo Italiano per la Scienza. Si tratta di 2 progetti presentati dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche, rispettivamente da Paolo Fornasiero, ordinario di Chimica Generale e Inorganica e prorettore alla ricerca, e da Federico Rosei, ordinario di Chimica Industriale. Il terzo progetto, finanziato nella linea Starting Grant, è stato presentato da Matteo Marinelli del Dipartimento di Fisica. La rettrice Donata Vianelli ha sottolineato che questi risultati confermano la qualità dei reclutamenti presso l'università e l'impegno dei ricercatori nell'attrarre fondi che porteranno innovazione nelle nostre strutture di ricerca e consentiranno di condurre ricerca di qualità a livello internazionale. Con un incontro a Pordenone si è concluso il tour di Cantiere Città, che ha proposto in giro per l'Italia progetti e iniziative delle città finaliste di Capitale Italiana della Cultura 2027. Le città finaliste di Capitale Italiana della Cultura 2027 si sono incontrate a Pordenone per la tappa conclusiva di Cantiere Città, il percorso che il Ministero della Cultura e la Scuola Nazionale del Patrimonio e delle Attività Culturali dedicano alle finaliste al titolo per consolidare le loro capacità progettuali e dare un futuro alle proposte ideate per la candidatura. Francesca Neri è responsabile del progetto Cantiere Città per la Scuola Nazionale del Patrimonio e delle attività culturali. Si è constatato nel tempo che la qualità dei dossier era così cresciuta e questo ha fatto un po' pensare che fosse come un peccato, no? Non valorizzarli, e per questo noi facciamo un percorso che dura un anno e che ha 2 momenti assembleari in presenza, che sono il primo a Roma all'apertura del percorso e poi un momento conclusivo che è quello che stiamo facendo qui per 3 giorni a Pordenone. Dopo l'accoglienza in sala consigliare del comune, le finaliste hanno preso parte alla Master Class CAS conclusiva a Palazzo Ricchieri. Alessandro Basso, sindaco di Pordenone. Veniamo dal panel Lanci in cui abbiamo presentato il nostro progetto, ci stiamo preparando anche ad agganciarci all'Aquila. Insomma, Pordenone sta cominciando a diventare veramente capitale della cultura 2027, anche acquisendo un know-how da esportare, e quindi bene per la città, bene per il territorio. Presenti i rappresentanti di Aliano, Brindisi, Gallipoli, La Spezia, Reggio Calabria, Savona e Sant'Andrea di Conza. Hanno visitato il Palazzo del Fumetto e apprezzato bellezze e accoglienze della città. Mi trasferirei volentieri perché è davvero molto bella. Complimenti e anche voi accoglienti e calorosi. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. È ispirato al tema del Giubileo 2025, la speranza, il presepe allestito dall'Arcidiocesi di Udine nel portico d'onore del Palazzo Patriarcale. Il presepe, che sarà inaugurato oggi alle 17.45 dall'arcivescovo Monsignor Lamba, è il frutto di una collaborazione tra il Museo Diocesano e il Centro di Formazione Professionale della Fondazione Casa dell'Immacolata di Don Emilio de Roia, il cui laboratorio di falegnameria ha creato una caratteristica capanna in legno che ospita le prestigiose statue dello storico presepe di Ara di Tricesimo. Un viaggio potente e visionario tra le sonorità originarie degli Area attraverso brani che hanno fatto la storia della musica progressive italiana, impreziositi da nuovi arrangiamenti e parti inedite. Si tratta di Area Open Project, il concerto in scena alle 20.45 al Palamostra di Udine, che vedrà sul palco Claudia Tellini alla voce, Marco Micheli al basso elettrico e contrabbasso, Walter Paoli alla batteria e Stefano Fariselli ai fiati, con Patrizio Fariselli, uno tra i fondatori degli Area, alle tastiere e nella veste di direttore musicale. Si chiude oggi la 15ª edizione del Trieste Flute Festival con il tradizionale concerto conclusivo della grande orchestra di flauti composta da docenti, studenti, giovani, professionisti, diretta dal maestro Alessandro Vigolo. Ospite speciale il coro interetnico e multiculturale Vox Tergesti alle 18 al Teatro Sloveno di Via Petronio. La Cegedacio Symphony Orchestra del Friuli Venezia Giulia torna a Pordenone per un concerto che promette di far scatenare il pubblico in sala. La serata dal titolo Let the Music Play è in programma alle 20.45 al Teatro Verdi. Pasolini, America, il poeta e regista, l'intellettuale davanti al nuovo mondo, questo è il titolo del convegno che si è svolto a Casarsa lo scorso febbraio e ora anche del volume che ne raccoglie gli atti. Il libro sarà presentato alle 18 a Udine nella sede della Scuola Superiore dell'Università, Palazzo Garzolini di Toppo Wasserman. In che modo gli Asburgo traghettarono la Trieste settecentesca nella modernità e perché in questo processo si nascondono le radici del drammatico conflitto etnico che sconvolse il confine orientale, prova a spiegarlo il saggio Il genio di Trieste di Maurizio Marzi Wildauer attraverso un'indagine storica che va dal 1719 alla fine della Grande Guerra. L'autore lo presenterà oggi alle 17.30 nella sala Piccola Fenice di via San Francesco a Trieste. Storia della letteratura italiana di Fiume, il titolo dell'ultima opera di Cristina Benussi, già docente di letteratura italiana all'Università di Trieste, un nuovo tassello per la ricostruzione della storia della letteratura italiana in Istria e Dalmazia. Il volume sarà presentato al Civico Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata di Trieste alle 17. È dedicato a Omero Antonutti l'appuntamento di oggi dei lunedì dello Schmidl, occasione per sfogliare con i curatori il catalogo della mostra dedicata al grande attore dal Museo Teatrale di Trieste. Appuntamento a Palazzo Gopcevic alle 17.30. Ed è tutto per questo appuntamento con l'informazione che è stato redatto e condotto da Daniele Lettige e Giorgio Bearz e con la collaborazione tecnica di Bruno Montevecchi e di Marco Ferrito. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Grazie per l'attenzione. Prossimo appuntamento con il GR alle 15. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.